A bordo campo di Dario Ricci. Ore 15, confine con il Congo. I due pullman del Togo hanno appena passato i controlli e accedono in quell'enclave dell'Angola che si chiama Cabinda. Sfilano ai finestrini i giocatori, ognuno con il suo iPod. Di lì a poco ci sarà l'inferno. L'esperienza peggiore della mia vita, ha raccontato sotto shock la stella del Togo, Emmanuel Adebayor. 20 minuti sotto il tiro delle mitragliatrici, i pullman crivellati di pallottole, uno dei due autisti ucciso, 9 feriti, tra cui 2 giocatori in condizioni gravi. I colpi sono stati sparati dalle mitragliatrici del FLEC, il fronte per l'indipendenza del Cabinda dall'Angola. Eh sì, lo sentivamo proprio da questo servizio. Venerdì 8 gennaio, vigilia della Coppa d'Africa che si sta svolgendo in Angola, vigilia insanguinata dall'attentato che ha fatto strage della spedizione togolese e poi costretto il Togo al clamoroso, inaspettato, doloroso ritiro dalla competizione. Storie dell'Africa, storie che legano, intrecciano calcio ed Africa. Stefano Tirelli, te l'aspettavi un episodio così clamoroso? Direi che così clamoroso forse no, ma in realtà qualche pensiero non proprio positivo l'avevo già, conoscendo un po' il continente africano da qualche anno. E quindi direi che probabilmente una delle mie scelte di non competere quest'anno è stata dettata anche dall'analisi politica sociale della nazione in cui si svolge la competizione. Beh, allora, innanzitutto benvenuto a bordo campo, perché chiediamo a Stefano Tirelli un'analisi, dei racconti sul legame tra calcio e Coppa d'Africa, perché Stefano Tirelli, 40 anni, è docente di scienze motorie all'Università Cattolica di Milano e per 4 anni è stato preparatore atletico della Nazionale del Ghana e chissà poi che non lo sia anche ai prossimi mondiali di Sudafrica 2010, ma questo è un discorso ancora tutto aperto. Allora Stefano, entriamo proprio nel vivo di questa esperienza. Coppa d'Africa che, come abbiamo drammaticamente capito anche da quest'ultimo episodio, non è solo calcio, vero? È un po' uno specchio di un continente attraverso quello che è il prato, il campo da football. Sì, in effetti questo continente, quello africano, è veramente complesso, sia nel bene che nel male. Io ho avuto esperienze molto molto positive sia con i calciatori in ambito lavorativo professionale, poi molti di questi sono diventati anche miei amici. D'altra parte però ho anche visto che gli stessi giocatori sono soggetti a così manifestazioni di idolatria da parte dei tifosi, ma al contempo, nel momento in cui le cose non vanno proprio bene, possono anche spesso essere soggetti di così azioni poco comprensibili per noi, come per esempio a volte insomma trovare qualche negozio o casa bruciata di qualche parente perché magari non si è riuscito a segnare il gol, magari non proprio decisivo ma importante per una certa competizione. Eh beh, insomma, un calcio che, usando un eufemismo, potremmo dire umorale, no? Veramente calciatori che poi spesso mantengono un legame quanto forte con la madrepatria, perché prendiamo l'esempio di grandi campioni con cui tu hai anche un rapporto d'amicizia, Essien, Montari, no? L'interista Montari, sono giocatori che lasciano l'Africa da giovanissimi e poi costruiscono la loro carriera all'estero. Ecco, che tipo di legame sopravvive? È un legame abbastanza critico, nel senso che è chiaro che amano continuamente il loro paese, le loro origini sono ovviamente ben radicate, ma proprio per il fatto di lavorare da ormai tanti anni in Europa hanno avuto modo di osservare un altro tipo di vita, un altro tipo di modalità di vita che non è né meglio né peggio, ma è semplicemente differente. Questo consente loro di aprire un pochino più quella visione in ambito professionale e sociale che spesso li porta ad avere anche qualche screzio con la stessa nazione piuttosto che con la stessa federazione. E quindi direi che è un rapporto realmente di amore e odio questo, perché ad esempio la Coppa d'Africa, soprattutto quando viene fatta, giocata nello stesso anno del Mondiale, per molti grandi campioni risulta quasi più un problema di gestione che una risorsa o una situazione, diciamo, di gioia per la quale partecipare. Calcio e potere, da quello che ci fa intravedere, non sono certo disgiunti, forse in qualsiasi posto, ma in particolare in Africa, no? Immagino che nella tua memoria ci siano parecchi episodi in cui proprio i dirigenti, gli uomini politici africani hanno svolto un ruolo da protagonisti nella gestione di vicende che forse avrebbero dovuto essere più propriamente calcistiche. Ce ne racconti almeno uno, dai. Mi viene in mente per esempio durante più che una Coppa d'Africa, la Coppa del Mondo di Germania 2006, ricordo prima della partita col Brasile, partita svoltasi a Dortmund, eravamo di notte, intorno alle 2, 2 e mezzo, in hotel, tutti svegli perché c'era molta agitazione e rabbia da parte di alcuni dei giocatori, in quanto la federazione proprio ghanese presente lì con dei loro interlocutori aveva praticamente smarrito, diciamo così, i biglietti destinati agli stessi parenti, mogli, figli dei giocatori, e questi giocatori si ritrovavano proprio a poche ore dalla partita senza i biglietti per i parenti. E poi, fammelo dire a me, mancava anche un'altra cosa, perché in Africa il calciatore africano non va avanti se manca il premio. Sì, questo va bene, cioè è venuto, però diciamo che in effetti questi problemi di carattere economico purtroppo fanno parte della realtà e della normalità. Spieghiamo bene questo aspetto, perché diciamo il premio, perché il calciatore africano nella sua cultura ha l'abitudine ad essere immediatamente gratificato, sì, anche economicamente, per la vittoria ottenuta. Sì, sì, sì. E questo durante queste competizioni pesa tantissimo. Insomma, si vince una partita, la sera deve arrivare la borsa con il contante. Sì, è così. Al di fuori dei confini europei direi che è proprio così, avendo visto sia la realtà africana e anche la realtà per esempio asiatica. Direi che, e questo è stato uno dei motivi per i quali alcuni dei giocatori insomma se la sono un po' presa a poche ore da questo importante match che poi appunto è stato Ghana-Brasile. Sì, diciamo che magari fossero arrivati puntualmente quei premi e magari anche quei biglietti, la storia di quella partita poi vinta dal Brasile, anche tra le polemiche per l'arbitraggio, forse sarebbe stata anche diversa. Permettimi di tornare al tuo lavoro. Un preparatore atletico che lavora con dei campioni di una squadra di prima fascia come il Ghana in Africa, immagino debba fare i conti anche con quella che è, come viene definita, la medicina non tradizionale africana, no? Insomma, preparatore atletico a fare a botte nello spogliatoio con lo stregone, se non è così poco ci manca. Sì, per fortuna non siamo mai arrivati a questi livelli, però effettivamente bisogna ammettere che la cultura della medicina tradizionale africana spesso in sé prevede delle pratiche che per noi sono assolutamente incomprensibili. Quindi magari si può vedere all'interno di uno stadio durante la partita correre avanti e indietro lungo la linea di rettilineo di una tribuna uno stregone con la gallina morta in mano che fa i rituali per scongiurare eventuali infortuni o eventuali, diciamo, risultati non graditi a sfavore della propria squadra. E a quel punto che fa il preparatore atletico che invece ha studiato sui libri e ha manipolato i muscoli e quindi diciamo ha tutt'altra impostazione? Io cerco, dico la verità, di rispettare le varie culture, quindi nel momento in cui vedo che comunque la pratica che viene fatta non va a ledere ciò che il giocatore o io stiamo facendo insieme per il suo bene, per la sua salute, poi alla fine cerco di incontrarmi, di accettare, e se poi per senso di responsabilità dovessi vedere qualcosa, come ho visto purtroppo, ma non solo da parte di alcune medicine diciamo tradizionali africane, ma anche da alcuni professionisti proprio del settore medico africano, alcune cose che realmente non sono positivi a quel ad punto esempio? E ad esempio delle iniezioni di sostanze antinfiammatorie mal fatte dal punto di vista della localizzazione anatomica, e allora a quel punto anziché funzionare bene un piede si va a gonfiare e impedisce a un giocatore di svolgere magari di praticare una semifinale per esempio. Senti, c'è un'immagine, staremo a vedere poi quello che sarà il mondiale sudafricano e anzi poi ti chiederò cosa dobbiamo aspettarci, ma c'è un'immagine che secondo te dalle esperienze che hai fatto esemplifica quella che è l'Africa del calcio, ce la racconti? L'Africa del calcio è il fatto che c'è questo entusiasmo, questa energia immensa, e questa energia per esempio la ricordo dopo aver perso col Camerun in semifinale 2 anni fa. Ci siamo trasferiti da Accra a Kumasi per andare a giocare la partita per il terzo posto contro la Costa d'Avorio, e a Kumasi c'erano dall'aeroporto fino allo stadio direi milioni di bambini, donne e uomini che ci festeggiavano come se avessimo vinto il mondiale, neanche la Coppa d'Africa. E questa è un'energia incredibilmente positiva. Il problema è che a volte questa energia diventa distruttiva nel momento in cui parte della popolazione perde completamente il controllo. Allora ricordiamoci quello che era successo col Camerun quando non si sono riusciti a qualificare ai rigori, piuttosto che in altre situazioni di estrema violenza. L'Africa è questa, è proprio energia massima, nel bene e nel male. Cosa dobbiamo aspettarci? Cosa ti aspetti per Sudafrica 2010? Che mondiale sarà? È un mondiale interessante perché io credo che tra Costa d'Avorio e Ghana una delle due potrà arrivare senz'altro nelle prime quattro. Sono due nazionali veramente preparate, molto esperte, forti. Ormai hanno tutti giocatori che da anni lavorano insieme, sia in Africa quando si ritrovano, ma in tutte le maggiori squadre e team europei. Beh, davvero interessante il racconto di Stefano Tirelli sul calcio africano. A bordo campo. Terremoto devasta Haiti, migliaia sotto le macerie, distrutti anche il palazzo presidenziale e l'aeroporto, comunicazioni in tilt. Martedì 12 gennaio, Haiti, uno dei paesi più poveri del mondo, è colpito da un terremoto, da una serie di scosse sismiche di inaudita violenza. Ancora incerto il numero delle vittime, probabilmente migliaia, ancora in via d'organizzazione i soccorsi internazionali. C'è stata una mobilitazione internazionale forse senza precedenti, vista la vastità e la profondità della tragedia. Oggi a bordo campo parliamo di Haiti e vogliamo parlarne anche per quelle che è la sua passione per il calcio, parlare di questo paese per quello che sono i momenti in cui riesce a gioire inseguendo un pallone, inseguendo la festa per le strade, sperando che poi presto questa festa possa ritornare per le strade di Port-au-Prince e di tutta l'isola. E ne parliamo con Bidrece Azor, 21 anni, calciatore italo-haitiano della Copparese, campionato d'eccellenza dell'Emilia-Romagna e attaccante della nazionale di Haiti che da qualche anno gioca qui in Italia. Allora Bidrece, benvenuto a bordo campo, raccontaci un po' come sei arrivato qui in Italia. Sì, ho giocato nella Sampdoria per 4 anni e niente, adesso sono qui nel Bocca Vignolese e niente, adesso speriamo un po' per quanto riguarda il calcio, speriamo un po' magari con la mia fortuna è quella di essere giovane ancora, speriamo che magari possa riprendere quello che magari ho perso per strada facendo buone prestazioni e niente, adesso speriamo bene che con il calcio le cose possono migliorare sempre di più. Ecco Bidrece, ti chiedo come sei arrivato in Italia tu, perché insomma è abbastanza singolare trovare un calciatore della nazionale haitiana sui campi di calcio italiani. No, la mia storia è una storia molto particolare, dovrei dire, perché sono arrivato qua in Italia io e mia sorella India, si chiama India. Siamo arrivati qua che eravamo, non dico piccoli, però più o meno io avevo 9 anni e lei ne aveva 12. Siamo stati adottati da un prete, si chiama Don Gino Boating, che tuttora viviamo insieme in una casa normale, non come gli altri potrebbero pensare, in canonica. E niente, siamo qui in Italia ormai da un po' di anni, da 12-13 anni, siamo ormai italiani, cittadini italiani e niente. La mia storia è iniziata che questo prete ci ha adottati, infatti siamo gli unici haitiani ad essere adottati da un prete, infatti lui praticamente è il nostro padre. E niente, adesso stiamo con questo prete qua e niente, adesso diciamo che sono praticamente italiano. Negli ultimi anni sono riuscito ad acquisire anche il passaporto haitiano, appunto, che mi ha permesso di andare in nazionale haitiana. Ecco, qual è il legame che conservi ancora con la tua patria d'origine? Ad Haiti c'è ancora la maggior parte dei miei parenti e zii che stanno ancora lì. Infatti, quando sono venuto a sapere di questa cosa, sono un attimo subito spaventato perché sono rimasto molto spiazzato e non me l'aspettavo una cosa del genere. Infatti, tuttora, anche prima, ho sentito mia sorella e ho chiesto se magari poteva fornirmi qualche informazione per quanto riguarda i miei parenti. Per adesso non ho ancora avuto nulla, infatti prima possibile vorrei capire un po' di più la situazione dei miei parenti. Ecco, hai invece qualche informazione o sei riuscito a entrare magari in contatto con altri calciatori della nazionale haitiana e quindi anche altri compagni di squadra per quanto riguarda il team nazionale? Purtroppo no, perché appunto è impossibile rintracciarli a livello telefonico perché non c'è proprio linea, non c'è proprio nulla lì. Infatti è quello l'unico problema, l'unica cosa è quello di via email. Però via email io avrò mandato non so quante email, però con nessuna risposta. L'unica cosa è quello di aspettare. Spesso le conseguenze di questi disastri naturali vengono amplificati anche dal fatto che magari gli edifici sono particolarmente vecchi o non costruiti secondo le norme antisismiche. Ecco, da questo punto di vista immagino che la condizione della capitale Port-au-Prince sia estremamente difficile. La casa bianca è andata in frantumi, non c'è proprio nulla, non c'è le case, su quattro ospedali su i tre sono stati distrutti, per cui c'è proprio rimasto proprio nulla, c'era gente che c'è il panico, non sta succedendo proprio il casino giù ad Haiti. Appunto, se fosse per me anche ora io partirei, perché quando succedono queste situazioni qua io vorrei dare una mano a soprattutto gente che fa parte del mio stesso sangue, del mio paese, io vorrei dare una mano. Bidres, ti chiedo ancora, quando è stata l'ultima volta che sei stato ad Haiti per motivi calcistici? Sono stato l'anno scorso perché abbiamo avuto anche le qualificazioni olimpiche, quelle per Pechino, purtroppo siamo usciti tipo ai quarti, però per il tipo di gioco che abbiamo noi e il tipo di storia di calcistica che abbiamo noi, purtroppo non abbiamo grandi strutture per poter magari ambire di qualcosa in più. Sono stati messi fuori da una squadra, da una nazione che è stata il Messico, quindi essere arrivati fino a quel punto lì per noi è stato un grandissimo onore. Il calcio haitiano è un calcio, diciamo, più che altro molto di forza, corsa, e ci sono giocatori che non sono la maggior parte che giocano nell'MLS in America, poi ci sono io che gioco qua in Italia, poi alcuni che giocano in Olanda, quindi alla fine il valore dei giocatori non sono nulla da invidiare, capito? Colpo di testa di Naseo, contrattacco e va in porta e segna Danone, ha portato in vantaggio Haiti al primo minuto del secondo tempo. Tra l'altro immagino che tu sappia che anche nella storia del calcio, insomma, c'è stato anche un incrocio particolare proprio tra Italia e Haiti, no? Nei mondiali del 1974, quel famoso 3-1 con cui l'Italia di Valcareggi batté Haiti, ma ci fu anche quel celebre gol di Sanon che pose fine ad una imbattibilità record del nostro portiere Dino Zoff. Sì, appunto, io non ho ancora nato, per cui queste cose le sono lette, le sono viste sui libri. Infatti Haiti tiene molto stretto questa storia qua e niente, loro diciamo che vivono su quel fatto lì e sono molto orgogliosi, diciamo. Quindi insomma quel gol non è certo stato dimenticato. No, tuttora ne parlano ed è molto ancora sentito tuttora, che siamo nel 2010, nel 2009, l'anno scorso. Per cui, solo per farle capire che alla fine, poi la gente haitiana è una gente molto calorosa, molto solare, e quindi poi il gioco del calcio lo vivono molto in un modo molto come se fosse un incontro, un punto di incontro per far festa. E quindi queste cose le ricordano molto e spesso volentieri. Fa male pensare che questa tragedia capiti proprio nell'anno del campionato del mondo, no? In quello che dovrebbe essere la festa del calcio e che insomma che un popolo o comunque il mondo intero non possa interamente pensare a questa festa che causa questa tragedia. Sì, purtroppo è la cosa che appunto mi rende, diciamo, triste, perché alla fine Haiti, con tanti problemi che ha avuto negli anni passati, con problemi politici, guerriglia, tutte queste cose, e finalmente le cose, una volta finite queste cose, sembrava che era tutto a posto, c'era turismo, iniziavano a girare le cose per bene. E questa cosa qua che è successo stanotte, diciamo, è stata proprio una cosa, una tragedia che io sinceramente, poi la cosa sta proprio nella natura, quindi non è che possiamo dire che alla fine è colpa di qualcuno, oppure è una cosa che magari può succedere, e quindi cioè, tutta la gente haitiana, persino io, ci è rimasta male, perché alla fine Haiti, diciamo che è un paese, diciamo, povero, però ha molti molti valori, che la gente è molto, sono persone gioiose, gente che piace divertirsi, gente che è sempre pronto ad aiutarti, e quindi a fare, cioè, succedere una cosa del genere non aiuta molto. Ti chiedo ancora, immagino tanti bei momenti vissuti con la maglia della nazionale, perché è sempre un grande onore, no? Poi a prescindere dagli obiettivi e dai risultati. Ecco, c'è un'immagine particolare della tua esperienza con la maglia di Haiti che ti piace ricordare? La cosa che mi piace di più ricordare è stata la prima volta che sono stato convocato. Era Haiti, Giamaica, 20.000 persone allo stadio di Port-au-Prince. La prima volta che tornavo ad Haiti dopo tanti anni, aver segnato il gol della vittoria, per me è stata una cosa, infatti tuttora adesso che ne sto parlando con lei mi vengono ancora i brividi, perché è un'esperienza che per me non potrò mai dimenticare, perché per me è stata una cosa veramente molto, ma molto bella per me. Allora, Bidrecha Zor, giocatore attaccante della Vignolese qui in Italia, l'augurio che possiamo farti da questi microfoni è quello di ritrovare il prima possibile la maglia della nazionale di Haiti, i tuoi compagni, e di segnare ancora un altro gol, questa volta da dedicare a un popolo orgoglioso, fiero e gioioso, che già da adesso in qualche modo sta reagendo a questa tragedia. Sì, ok, lo ringrazio. Per A Bordo Campo di oggi è tutto. Un grazie a Peter Bescapè in regia. Vi ricordo che potete scriverci all'indirizzo mail abordocampo@radio24.it e riascoltarci dal sito internet www.radio24.it. E poi dalla prossima settimana A Bordo Campo cambia contenuti e cambia anche orario. O meglio, da sabato 23 gennaio l'appuntamento rimane alle 13.15, ma per 3 settimane A Bordo Campo sarà speciale Vancouver 2010, viaggeremo insieme verso le Olimpiadi invernali di Vancouver 2010. Invece da domenica 24 tornano i contenuti abituali, le piccole grandi storie del mondo dello sport, ma non più alle 17 ma alle 14. Allora, da sabato 23 alle 13.15 A Bordo Campo speciale Vancouver 2010, da domenica 24 appuntamento con l'abituale A Bordo Campo, ma alle ore 14. Un saluto da Dario Ricci.